Se la pioggia mi bagna, se il sole mi scalda, io son tanto felice perché amo di più. Felice di vivere tra le cose più belle, felice di vivere dove sei tu. Io ti ringrazio tanto d'avermi dato il sole, d'avermi dato il grande mare blu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le rose dei giardini e l'acqua che dai fiumi scorre nel gran silenzio ad abbracciare il mare. Questo è l'amore, l'amore. Questo è l'amore, l'amore. L'amore di un'amica quando mi sento solo, il cuore suo che batte nella mar. Oh, oh, oh, oh, oh, le notti che non dormo per poi pensare a lei che ora amo tanto di più.